passing men at ready run, trying not to think of when that lunchtime bell will ring again. Oh, what fun we had, but did it really turn out bad? All alone at school, what hasn't been a bicycle? Oh, what fun we had, but at that time it seemed so bad, trying different ways to make a different school. The headmaster's had enough today, all the kids have gone away, gone to find it next to school. Every turn that is the rule, sits alone and vents his pain. Same old bed sides again, all the small ones felt to town, walking home it's worse in town. Oh, what fun we had, but did it really turn out bad? All alone at school, what hasn't been unfavorable? Oh, what fun we had, but at that time it seemed so bad, trying different ways to make a difference through the day. Lots of boys, lots of smells and lots of noise. Playing football in the park, kicking with my stuff and up. Baggy trousers, dirty shirt, pulling hair and eating dirt. Teacher comes to breaking up, back of the head with a plastic cup. Oh, what fun we had, but did it really turn out bad? All of that at school, what has it been, not break a rule? Oh, what fun we had, but at that time it seems so bad. Trying different ways to make a difference through the day. Baggy Trousers, questi sono i Madness. Per la prima volta abbiamo avuto Chuck Bird in diretta alle ragazzi, non è il mio orario, non è il mio orario, di solito sono da un'altra parte a quest'ora, invece è un piacere enorme. Esatto. Edo, dimmi, ma perché non prendi la chitarra e facciamo qualcosa? Dai, dai. Prendi la chitarra e vai, ma così proprio lì. Una volta che siamo qui. Ma lui lo sa. Vuoi rifare un... Allora, svegliamo le carte. Svegliamole. Svegliamo le carte. Svegliamole. Chuck Bird era tutto finto. No, non devi dire così. Non si è mai svegliato alle 6 del mattino. No, bisogna dire. No, allora no, a questo punto a dico Cesare è quel che è di Cesare. C'è un po' di Chuck Bird in ognuno di noi. Bravo. Pelle d'oca. Io mi sono anche cagato addosso quando appena avevo detto questo. Portate gli Scottex, ragazzi. No, c'è un po' di Chuck Bird in tutti noi e il Chuck Bird è un personaggio che nasce da un desiderio collettivo di sentire una persona che alle 6 del mattino dicesse le cose che tutti volevano sentirsi dire. Vuoi dirlo forte, fratello? Più forte di così? No. Allora, no, volevo no, dire no. Che tu... O alzi il microfono, altrimenti lui non sente. Ho sentito benissimo. Ha sentito benissimo. Quindi diciamo che Chuck Bird tutte le mattine si materializzava perché voi ragazzi che siete lì dietro le vostre radioline, i vostri transistor, volevate una persona come Chuck Bird che vi raccontasse le cose che voi volevate sentire. E track, questa è la magia che si compiva tutte le mattine, dalle 6 alle 7 qui da Rock FM. Oh, se trovo un altro lavoro e track te lo rubo al volo. Lo scrivo proprio sul taccuino. Anche se nel suo caso avrebbe dovuto dire e Chuck. Bravo. Bella Edo! Ragazzi, mi fate venire la pelle d'oca e io sono veramente orgoglioso di avere condiviso parte della mia strada con gente come voi. Grazie. Corazon, ragazzi. Grazie. Ma guarda che pezzo ti ha preparato, Edo. Mamma mia. Edo, tu sai leggere dentro il cuore delle persone. Oh, mamma mia, farò il cardiologo. Ecco, bravissimo. Perché sei bello dentro e ho visto anche le tue radiografie. Esatto. E a proposito di radiografie, io credo che sto svenendo. Sì, stai finendo le batterie. Così. Ok, allora. Senti, ma era tipo come Ariel. Ma sì. Il fatto che mi hai fatto prendere la chitarra era un po' come dirmi vai a prendere il bastone cagnolino che mi hai ravvivato. Perché a me quando mi dice piglia la chitarra e suona, io sto un secondo, però. ecco un'altra chitarra che salta fuori. Non tiratevi fuori canzoni. Seguo. Ecco, non canzoni. Però io avrei una proposta, perché non mi sento più con questa cuffia? Perché l'altra, scusate, non ho sbagliato esatto. Ho sbagliato io. Io, Edo, proporrei una cosa così. Non c'è tamburellino, ecco qua. Ci sei? Sto arrivando. Aspetta che vengo. ma la facciamo un po' romantica? Direi di sì. Aspetta un attimo ancora. Eccolo. Senti il Metis come lo tiene, gas. Let's go, hey, oh, let's go deforming on a straight line. I give it to that someone, I kiss again a hammer, a bliss creep up. They point in the back seat, the generous teammate, or teaching the black beat. A bliss creep bop. Oh, yeah. Alla Lurid. Hey, oh, let's go. Doing the step down. What they want, I don't know. They're all red up and ready to go. They're from the other street line. They're going to the top one. A kiss a little hammer. It's great bother. The team in the back seat. The generates teammate. For teaching the black beats. It's great bother. Hey, oh, let's go. Fishing the bags now. What they want, I don't know. They're all ripped up and ready to go. They're falling on a straight line. They go to the top one. They kiss a little hammer. Will it scrape off? Hey, oh, let's go. Hey, oh, let's go. Hey, oh. Let's go, hey, oh, let's go. Omaggio a Lou Reed. Yeah. Thank you very much, we love you all. E chi lo ferma più, Edo? Cos'è? Sweet Jane. Signore e signori, ci sarebbe un amico che ho il piacere di farvi entrare nella... Aspetta, posso... Lunga 24 ore. Posso introdurlo io con... Vai. Aspetta, Ehi, sta per arrivare Mr. Rock and Roll. Lo sento, stai sentendo? Lo sto annunciando definitivamente. Crossing New Orleans, evergreens. Live a country boy named Johnny B. Good. He never ever learned how to write so well, but he can play guitar just like a regular bell. Go, go! Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! Hey, Johnny B. Good. Allora, mi si sta avverando un allineamento planetario incredibile. Allora, prima di tutto ho fatto Chuck Bird per la prima volta, un orario assolutamente inusuale. In diretta, tra l'altro. In diretta. Esatto. Poi abbiamo Edo dall'altra parte che... Non vedo caffè sul tavolo. Non c'è il caffè. Questa è un'altra cosa importante. Edo di là e Ariel era qui al mio fianco. Adesso si è allontanato, ma è un'altra cosa che io ci tenevo moltissimo. Prima di concludere la nostra avventura qui a Rock FM, di fare un pochino di cose insieme ad Ariele, e poi si è successo quello che nessuno pensava potesse succedere, che ancora una volta mi trovo di fianco a Maurizio Paolizzi. Chi l'avrebbe mai detto? Ma chi l'avrebbe mai detto? Eh sì, rieccoci qua. Sono le prime parole che pronuncio dall'inizio della... dell'anno? No, di questa 24 ore. Sono un po' emozionato come al solito da un po' di tempo a questa parte. Tutto bene? Una favola. Come è filato finora? È filato tutto molto liscio, ci sono stati degli ospiti incredibili, delle esibizioni favolose e soprattutto un pubblico questo che sembrava. Era questa la domanda. Il feedback qual è? Era come essere un. Cosa è successo? È arrivata della vodka russa. Vabbè, tenetevela di là, mi raccomando. Sì, sì. Non fatela girare. E farla girare anche ai colleghi. Vabbè, a questo punto lo spraccamento è talmente. È davvero vodka. Sì, è molto, molto preziosa. Tra l'altro, ora non è bello che. Però intanto chiudiamo, quindi. Ok, allora io in questo momento. Maurizio, vuoi raccontare qualche stronzata? Qualche aneddoto nel frattempo. Per darvi il tempo di bere? Avete bisogno di pretesti? Avete bisogno. No, credo che non sia. Ecco, questa visto, tosse. Questa visto, tosse visto, è frutto del. Ok, tocca a me. Vai, Chuck. Ragazzi, ci siamo in pieno. Questo è veramente quello che io intendo. È veramente il rock and roll fatto materializzato. Siamo con della grande musica, con delle persone meravigliose intorno a noi, sotto la radio, veramente un pubblico che onestamente mi sento un pochino una rock star. Questo me la sto godendo moltissimo. Sono le 3:11 e a quanto pare. Là fuori c'è un sacco di. Io che di sono appena, arrivato posso dirtelo, te lo posso confermare. C'è stato un abbraccio corale mentre arrivavo ed è stato veramente una gran bella cosa. Ho conosciuto persone con le quali ho soltanto scambiato post e messaggi e finalmente si sono materializzate davanti a me, che è davvero una qualcosa di forte. Così me l'aspettavo, ma anzi è molto di più. Si tocca con mano stasera. Mamma stanotte. Mia. Sì, a me mi hanno preso, mi hanno tirato per aria, porca miseria. è stato veramente grande. Io penso di non aver mai posato per così tante foto, nemmeno quando mi hanno preso in questura con le mani nel sacco più di una volta. È veramente interessante. Non mi hanno preso le impronte digitali, questo è positivo. Mi sento ancora. Sei spettacolare, Edo. Veramente tu sei il mio idolo della serata. E dovete sapere che Edo, veramente, penso che sia la 42esima ora di fila che ha. A fare la regia. A proposito di regia, com'è la gestione della musica? La gestione della musica è fantastica, perché o la si viene a suonare o la scelgono i nostri ospiti, quindi di così, insomma. E i collaboratori qualche disco se lo possono portare? Tu ho una borsa piena di dischi. Attenzione, hai vinto, Faulisi, però li metto io e tu li commenti. Va bene. Ok. Vado e io direi di fare anche un'altra cosa, se vi va. Magari mandiamo Joy Ramone. Oh! Sì! E poi sfruttiamo la nostra splendida Luciana, magari prendiamo un paio di telefonate in diretta. Perfetto. Andata con i dischi conditi da Maurizio Faulisi. Va bene. Allora scusami Edo, ma Joy Ramone a questo punto visto. Certo, ti deve. Va bene, tocca a te, vai. Non so, mi scende una lacrima così sulla fiducia. What a wonderful world, Joy Ramone, questa è Rock FM. Chiamate al numero 02-670-9132. I see friends shaking hands, say hi. What a Wonderful World, Joy Ramones. Abbiamo la prima telefonata, pronto? Pronto. Ehi, abbiamo Ale, ciao Ale. Ciao Ale. Ciao. Allora, aspetta, aspetta, Ale cosa vuol dire? Ale fa brutto, attenzione. Ovviamente. Attenzione, qui abbiamo... L'abbiamo chiamata noi o ha chiamato lei? Ha chiamato lei. Ha fatto io, tesoro. Ha chiamato lei, ha chiamato lei, bene. Allora, Ale, come va? Cosa stai combinando? Ragazzi, l'emozione è fortissima. Un po' sì. Sono le ultime ore, le stiamo vivendo a pieno tutti quanti qua fuori. Ah, tu è vero, perché tu sei sotto la radio, giusto? Sì, adesso sto tornando a casa e volevo concludere questo ritorno a casa con voi, ancora una volta. Ok, bene, ora lo stai vivendo proprio in prima persona, eh? Esatto. Bene, senti, bene. Giusto un paio di ore per riposare, poi torni, giusto? Giustamente. Ah, ok. Mi riposo per essere super attiva domani, per essere di nuovo con voi. Perfetto, per sostenerci, visto che noi domani saremo degli stracci. Per supportarvi, sì. Ok, perfetto. D'accordo Ale, ti ringrazio, buonanotte. Ti abbraccio fortissimo. Cioè, te la sei intortata tutta. Hai ragione. Allora, grazie Ale, anche da parte del Matthews. E ti faccio anche salutare da Chuck Bird. E anche... Saluto anche Kenny, che è qui con me. Ciao. Vabbè. Kenny. Oh, benissimo, quindi vedi che abbiamo fatto questo saluto collettivo. Abbiamo fatto questa doppietta noi. Ecco, noi invece... Saluto circolare, come ecco. No, io purtroppo vivo questa mia sdoppiamento di personalità, quindi non sono mai solo, questa è la cosa positiva. La cosa negativa è che al cinema devo pagare per due, pur occupando un posto solo. Ale, un bacione. Un bacione a voi ragazzi, a domani. Ah, buonanotte. Grazie Ale, ciao. Buonanotte. Vi ricordo, dopo il disco scelto dal Fauli, naturalmente 0267091 32, se volete chiamare andiamo in onda, proprio come si faceva nelle radio americane, nei programmi notturni, no? Esatto, bella idea. Bene, allora, Maurizio, cosa hai scelto? Ho scelto di andare a Austin, Texas, se gradite. Assolutamente. Ok, Austin, Texas, quel covo di musicisti che amano fare rock and roll, blues, country e magari tutto quanto messo assieme. Questo è un gran bluesman di mezza età, che non conosciutissimo, ma chi ha la fortuna di conoscerlo se lo gode. Si chiama Sean Pittman, è cattivo, cattivo, cattivo. Looking good. Avete capito? Sean Pittman. Mamma mia. Avete sentito? Che chitarra. Sean Pittman. È lui. Oh. Oh. Anche questa è una good rocking tonight. No, perdonatemi, non posso resistere alla tentazione. Posso? Puoi. Good rocking tonight. Promosso a pieni voti. Oh ragazzi, qui l'ora si fa tarda. Ciao Max, innanzitutto Max, bentornato. Bentornato, grazie, grazie. Abbiamo una telefonata. Una telefonata che va in onda. Sì. È importante allora. Chi è? Chi sei? Molto importante. Attenzione. Presentati. Chi parla? Pronto. Favorisca documenti. Documento, patente 247. Ok, cominciamo a ragionare. La patente è davvero rocker, è l'unico documento accettato da queste parti. Bravi, bravi ragazzi. Hank, abbassa la radio. La bassa. No, dai, Hank in diretta. Quanto no, ragazzi. In diretta dal bancone almeno. Esatto. Ragazzi, sto guidando in verità. Sono un contromano. C'ho una birra in mano. No. Molto strano. Il telefonino nell'altra. Minchia, mi stanno rompendo le palle veramente. Oh. Ma vaffanculo. Siamo davvero orgogliosi. Ci pare di capire che sei solo. Ciao ragazzi, allora. Ciao ragazzi. Ok. C'è una festa in corso da quelle parti. Ragazzi, com'è andata qua sotto prima? È andata benissimo, veramente ragazzi. Siete dei grandi, siete. Avete legato? Abbiamo legato, legato. Vi hanno legato invece. Siete appena slegati. Tranne che sono legato, perché veramente. Tra l'altro mi sembra che tu sei rappresentante del gruppo Straight Edge. Sì. Abbiamo il vanto di poter contare su un pubblico decisamente sobrio, Straight Edge. Hank è il presidente del gruppo Ascolto Straight Edge di Rock FM. Fantastico. Bravo, difatti io tengo alto il vanto di essere una persona sobria. Tu tieni alto il gomito, diciamola tutta, dai. Entrambi i gomiti. Gomiti al cielo e fottuto rock and roll. Ma che i gomiti sono sempre sul banco, sono. Infatti, va bene, grazie Hank. Ti vogliamo bene, Hank. Grazie. Ragazzi, alla prossima. Sempre rock and roll. Rock and roll. Rock and roll, via Bruschetti, angolo via Zuretti. Pubblicità potrebbe. No, è occulta. È proprio. Scusatemi, grazie anche, grazie a tutti, alla prossima. Chiuso lunedì, specialità alla griglia. Specialità alla griglia, hamburger. Parcheggio. No, ampio parcheggio purtroppo no. Ma non è una scelta. Allora si sta popolando lo studio, per fortuna, tutti i protagonisti di Rock FM, ma adesso c'è anche Giulio Caperdoni. Anche Giulio Caperdoni, lui. Ecco. Allora, a questo punto, visto che. Senza cuffia. Max, scusate un attimo, Max, tu l'hai provata questa vodka incredibile russa? E io, guarda, siccome ci aspettano ancora parecchie ore, perché non dimentichiamo che in questo momento sono le 3:21. Non siamo minuti neanche primi. A metà. A noi manca ancora parecchio, quindi noi siamo davvero contenti che la gente ci porti i libagioni. Noi abbiamo approfittato abbondantemente, ovviamente. Però c'è una responsabilità. C'è una responsabilità. La responsabilità che in questi anni abbiamo dimostrato davanti ai microfoni. Veramente, no? Guarda, poi li vedi questi ragazzi qui che sembrano tutti rock and roll, invece però a un certo punto si mettono in una condizione proprio di responsabilità. Per di noi serietà. È importante farvi capire che ci siamo, non è che potresti rimetterti i pantaloni. Ok, lo faccio subito. C'è un'altra telefonata. Pronto? Speriamo non sia un amico di Hank. Chi è? Pronto, sono Manuel. Volevo salutare Edo, che ha capito chi sono probabilmente. Sei il fidanzato di Edo. No. Manuel, dici anche il tuo cognome, se non è Agnelli ti chiederei mettere giù il telefono. No, lascia stare, per favore, non mettiamo fuori delle strane voci. Ciao Manuel. Grazie Manuel. No, io volevo solamente dirvi che sono qua col cuore, ho appena finito di lavorare. Ma da dove ci chiami, Manuel? In provincia di Ravenna. Provincia di Ravenna. Sì, sono venuto. Ma sei venuto a Russia a vederci? Alla grande. Oh, certo, fratello. E poi verrò anche a Firenze domani. È vero, questo è un assist per ricordare, esatto, che domenica sera noi saremo tutti davvero tutti. Manca solo Fabio Treves. Fabio Treves perché ha degli impegni, giustamente. Frick? Noi siamo messi con Frick. Viene in barella. Per Frick abbiamo acquistato degli antidolorifici che speriamo gli permettano di venire. C'è un polmone d'acciaio sul palco. Tra l'altro concedetemi una parentesi costole. Oltre alle tre di Frick ce ne sono due incrinate del Treves. Anche Treves che è caduto sul palco qualche tempo fa e quindi abbiamo altre due costole incrinate. Tra l'altro anch'io ho mangiato due costolette stasera e mi sono un po' rimaste qua, se proprio interessa. Tra l'altro il problema è che Treves, gli ho detto, è inutile che continui a voler fare il Devil Rot. Quando fai la spaccata, quando atterri, ovviamente devi essere un po' più. Manuel, grazie per aver chiamato e grazie per esserci stato vicino. Ci vediamo a Firenze. Purtroppo non hai vinto niente. Esatto. La risposta non era quella giusta. Ragazzi. Ma senti Manuel, se io tipo ti dicessi corna al cielo, tu cosa mi rispondi? C'ho tutto rock and roll. Yeah, you got me. Allora qualcosa vince. Va bene, allora domenica mi darete qualche cosa. Da. Esatto. Ti daremo Claudia. Mi va benissimo. Guarda, non esserne così sicuro. Ma parlavamo di una foto, dai ragazzi. Va bene, allora mi accontenterò di una foto. Dai. Grazie Manuel. E tutto questo sta succedendo, ragazzi, perché Claudia sta riposando di là e non ascolta. Esatto. Grazie Manuel. Ciao, buonanotte. Buonanotte. Se mi permettete, ragazzi, visto che adesso facciamo partire un pezzo. Certo, dai, il tuo. Allora mettiamo un pezzo mio, perché tutta la sera che sono qua che faccio il baluba. Ho portato un disco. Ma scusa, mi sembra di leggere nei tuoi occhi una frase tipo: cioè, non è che sono qua a far ballare la scimmia. Non sono qui a far ballare la scimmia, non sono qui per collare le biciclette, sono qui per presentare dimmi che ho The Witch of Psycho. La seconda che hai detto. Grande. The Sonics qui a Rock FM. Wow! dire, accidenti, che cartella questo pezzo. E accidenti, che cartella questa vodka. No, Edo, perdonami, ma il tuo slogan è porca Eva. Porca Eva, esatto. Certo. Abbiamo un altro ascoltatore, pronto? No. Sì, ciao. Ma tutti Kenny. Uomini, tutti uomini. Non è vero, non è possibile. Io sono il tassista di Alefa Brutto, quindi a mio fianco c'ho lei. Quindi non sei proprio un uomo. Non posso fare a meno di voi, ragazzi. Io diciamo... questa voce la riconosco, ma farò finta di non riconoscerla. Ciao Max. Ehi là, com'è? Tutto bene? Siete sulla strada del ritorno? Sì, mi sono fermato. Siamo persi. Mi siete persi? Allora non sei un buon tassista. Ma è lei che mi deve dare le istruzioni. È lei che mi deve dare, suona un po' strano. Sono un po' strano, sì. Non limonate, anzi limonate duro, ragazzi. No, no. Dai, limonate duro. Ma non fate le due cose insieme. Guidare e limonare duro di solito non porta. Non funziona. Non porta. Infatti sono fermo con le quattro frecce accese. E stai limonando. E stai parlando al telefonino contemporaneamente, ma sei miracoloso. Questa è l'ennesima dimostrazione che ci rivolgiamo a un pubblico di persone intelligenti, ragazzi. È ufficiale. È ufficiale. Un applauso. Nonostante vengano qua sotto a saltare sotto la pioggia, tra l'altro, perché purtroppo ricordiamo che il contesto nel quale stiamo vivendo questa ultima 24 ore non stop di diretta di Rock FM, meteorologicamente parlando, purtroppo non è dalla nostra parte, diciamolo. No, ma migliorerà. Esatto. Anche gli angeli stanno piangendo. Oh. Giulia. Una standing ovation. Proprio una crepa nel cuore adesso. Si è aperto in due come una bomboniera dopo il primo tradimento. Diamo un bacio a Nick e a Ale. Buon ritorno. Grazie a voi. Domani, ciao. Certo, sì, ovvio. Cioè, sì, dire domani, tra qualche è importante ora. Dire comunque che domani, nel senso, noi adesso non ci fermiamo, nel senso la non stop è una vera non stop, perché Rock FM è abituata a dire cose vere. E quindi anche il fatto di annunciare una non stop di 24 ore è verissima. Noi siamo qui, c'è Maurizio Falisi, c'è Giulio Cappardone, c'è il Matthews, c'è Max. Matthews è registrato, è una registrazione questa. Mi spiace, devo contraddirti, in questo caso è una registrazione. Ma no, se guardiamo l'orologio sono le 21:18. Esatto. Ma ci sono anche altre cifre, cioè un 50, 10, 12. Quello è il nostro cachet. Aloha. Allora, tra l'altro c'è Ardu che ha detto: sono appena tornato a casa, accendo la radio, sento Joey Ramone, ora mi rivesto e arrivo sotto la radio. Ma puoi venire anche nudo, perché a questo punto, visto che fa il Faulisi è qua. Beh, allora me li ritogli i pantaloni, ragazzi. No, ecco, tirati giù i pantaloni di nuovo, perché d'altra parte. Allora, secondo me per radio si vede, se guardi proprio bene dentro la tua radiolina qualcosa si vede. Anche questa è la magia di Rock FM. Solo sentendoci voi sapete esattamente cosa stiamo vivendo in questo momento. C'è un po' di dolore, perché non possiamo negare questa cosa, però quello che stiamo vivendo in queste ore, al di là dei tanti amici che anche quest'oggi hanno voluto onorare questi studi, ne vogliamo ricordare qualcuno? Beh, insomma, Giuliano, siamo riusciti a far addormentare Giuliano? Sì. Spero non ascoltando Rock FM, sta ascoltando qualche altra radio per cui si è abbioccato. No, voleva una ninna nanna, poi ha detto: come farà ad avere la ninna nanna domani notte, finito il concerto? Beh, ma noi ci siamo, voglio dire, anche domani. Ma infatti Serio andrà nel backstage. Certo. Farà quello che è una promessa. dove bisogna firmare, ragazzi? Ma infatti abbiamo concordato poi che quello che succederà è che quando lui tornerà in albergo anche domani notte, chiamerà prima me, poi io chiamo voi, facciamo una conference call e facciamo la radio telefonica. Ottimo. Tra l'altro già abbiamo strappato questa promessa anche a Luca De Gennaro, che probabilmente prima di iniziare il suo set sul palco De Negramaro, che aprirà con un po' di proposte che arriveranno da una console, e noi ovviamente un po' ci sentiamo vicini a Luca. Ci ha promesso un collegamento telefonico. Sì, domani. Max, ma sai che ero convinto che tu fossi l'inventore, o tu o l'Ariele, di Corna al Cielo e fottuto Rock and Roll? No, in effetti dobbiamo tributare il giusto onore a un amico, se non ricordo male, di Genova. No, può darsi. No, perché c'è qua un SMS. Il dissacratore. Il dissacratore, è lui. Allora rendiamo onore e anzi dovremmo pagarti quasi dei diritti d'autore, anche se in effetti in questa fase della radio direi che... Pagare è un po' casino. Pagare abbiamo già pagato abbastanza. No, no, però... col nostro sangue. Quello del dissacratore era l'ultimo SMS. A me piace molto il penultimo. Sì. Mi ricordate il numero di telefono lentamente? 0267091 32. Questo è professionismo, ragazzi. Questa è vera, anzi, per 18 anni Rock FM è stata anche radio di servizio, fino alla fine. Senti, abbiamo un disco? No, aspetta, cioè, prima del disco dobbiamo... Faccio un annuncino io, ragazzi. No. Cos'è questo messaggio qua? Ah, quello lì è, okay, arriva dagli alieni. L'ha mandato Mox questo. Oh, mamma. Io vi voglio ringraziare dell'ospitalità per questa sera, perché è stata veramente una cosa squisita. Sono qui dalle 8 praticamente. Ma tu sei a casa tua, ma fratello? Sì, no, diciamo così, diciamo le cose. Ma no, ma è vero. Sono a casa mia e vi ringrazio di avermi fatto sentire a casa mia e sicuramente domani ci ritroveremo a Firenze per il concerto. Oh, questa è una promessa del Metius, ragazzi. Allora. Saremo io e Chuck Bird, mi raccomando datemi doppi buoni consumazioni, perché dall'altra parte ci saranno degli svantaggi, ma almeno un vantaggio dovrebbe esserci in questa mia schizofrenia. Ragazzi, buona continuazione per questa serata. Io è bello questa cosa qua. Sì. Ok, e vi lascio con questi di farabutti del rock and roll. Un gruppo emergente, l'hanno definito così. Sì. Emergente in che senso? Nel 96 era emergente, adesso è un buonissimo gruppo. Adesso è una realtà. Grazie al Metius, lo salutiamo, gli auguriamo buonanotte. Ci sentiamo domani, ci vediamo col Metius alla Flog a Firenze. Vi ricordiamo, domenica sera, domenica 1 giugno, ci sarà la prima grande festa della famiglia, della Rock Family. E ovviamente questi sono gli STP con Hello LA. Buonanotte ragazzi. Anche il mio. Ah, che band di rock and roll. Abbiamo Roberto da Genova. Che fai in giro a quest'ora, Roberto? Non sono Roberto, sono Francesco. Infatti. No, perdonami, forse ti sei confuso, ma tu sei Roberto. No, tu sai, è vero, me l'ero dimenticato. Come si diceva Natale, detto Ivan, tra l'altro. Me la ricordo questa. Tra l'altro mi sto sentendo sia alla radio che al telefono, è fantastico. È a lei. Dove sei, Francesco? Io in questo momento sono a Bolzaneto, sono partito di casa alle 5 del pomeriggio perché qui la radio prende. E sono continui in macchina a girare? Dalle 6 che... silenzio religioso con sigarette e pasta. Porca miseria, grande. Ma macchina spenta, vero? Sì, ovviamente. Ah, okay, domani non potrò tornare a casa perché la batteria sarà scarica, ma pazienza. Va bene. Le vendono le batterie. Ma vuoi dire, Roberto, che quindi non avrai batteria, sì, per venire Francesco da Bolzaneto a Milano per godere delle ultime ore della diretta di Rock FM? C'è la stazione. Faccio andare, quando sentivo la gente che c'è lì fuori, ho pensato che avrei fatto molto meglio a venire lì in via Locatelli. Avrei ancora in tempo, sei ancora in tempo. Esatto. Sì, sì, se la benzina. Quindi sei senza benzina e senza batteria fra un po'. Sì, sì, ma ho voi almeno. No, tra poco non ci saremo neanche noi. Sì, ma l'energia, l'energia che trasmettiamo noi non ha quel potere. Sì, ma tu non me lo ricordare che tra poco non avrò anche voi. Stiamo cercando di dimenticarlo anche noi. Speriamo. Francesco, quanti anni hai? 21, credo. No, mi dispiace se fuori target, Francesco. Noi puntiamo un target classico. Noi puntavamo i 35 anni minimo. Innanzitutto sei Roberto. Senti, ma come ti sei trovato con questa programmazione di questo ultimo anno e mezzo di Rock FM? Guarda, io vi ho scoperti tipo da neanche un anno. Ah, ho capito. E mi sto dannando di perdervi già subito. Senti, vabbè, ma per te possiamo andare avanti per 17 anni. Sì. Esatto. D'accordo. No, la domanda è diritto. Tra l'altro io suono in un gruppo, sì. Il gruppo si chiamano Four Roses. Ah, certo, ma è un... Che suona vagamente come tributo? No, non è assolutamente un tributo, me lo dicono in tanti, ma a me non piacciono neanche tanti. No, dicevo tributo al buon Barbon. Ti devo salutare. Ovviamente, quello sì. Quello sì. E avevo sempre sognato di poter... Senti, andare, ma ci hai scoperto da un anno, vuol dire che prima... Cosa ascoltavi? No, prima non usavo la macchina. Ah, ok. Usavo solo i dischi. No, io... Non ti preoccupare, sono sempre stato da questo lato, diciamo. Okay. Va bene, okay. Grazie allora. Grazie. Buonanotte, buona continuazione. Ciao, alla prossima. Buonanotte. Grazie. Francesco, grazie. Ciao, grazie a voi. Grazie. Ma stavo vedendo che era Roberto, ragazzi. Ma io da Genova. O Ivan, forse. Non so. Ma sai che c'è il dissacratore che si sta allargando? In che senso? Dice che la metà delle battute di Max e di Ariele le ha create lui. Ma chi lo sa, chi magari è così, Chi potrebbe, chi può dirlo? Dai, dicene qualcuno. Perché, voglio dire, lui... No, non le dice. Magari lui manda sms. Asserisce questo. No, guarda, io sono certo, in effetti devo dare, anche perché l'ho fatta molto mia in questi anni, Cornacello ha fottuto rock and roll, sicuramente arriva da un amico genovese, e spero che sia lui in questo caso. Scusate un attimo, ho una telefonata vivente da Chiavari. Ciao Massi. Ciao Massi, come va? Benissimo. Da dove chiami? Chiavari. Ah, ok, bene, mi fa piacere che tu stai ascoltando Rock FM? Assolutamente sì. Ah, va bene, ok, grazie, mi raccomando, tieni duro. Continuerò tutta la notte. Perfetto, ok, e poi vieni anche a Firenze. Cercherò di fare il possibile. Perfetto, fantastico, grazie Massi, alla prossima, buonanotte. Qui c'è una persona che deve essere convinta, sta cercando di convincersi se venire o no da queste parti. Dice, sto decidendo se arrivare lì da voi, sarei da sola, senza conoscere nessuno. Wow. Aspetta, è anche senza una radio portatile, ma in 10 anni che vi ascolto, il primo sms. Vedi, sul discorso degli sms si potrebbe aprire, eh? Allora, la risposta è assolutamente positiva, devi venire, non è necessario avere la radio, via Locatelli 1, e qui c'è una montagna di amici che ti stanno aspettando. Esatto, tu vai là e dici, ciao, io sono un'ascoltatrice, mi chiamo XY e ciao. Tra l'altro questa cosa del primo sms, della prima mail, è molto bella, perché in molti in effetti sono stati autodefiniti ascoltatori silenti in questi anni. Sì, è verissimo. E però in questo periodo ovviamente hanno sentito l'esigenza di farsi sentire, farsi vedere, li abbiamo visti tanti, e quindi continuate a farlo, nel senso, va bene, a noi fa molto piacere. Va bene, lancio un appello, perdonami, sì, va bene, vai. Telefonate in diretta, abbiamo sentito 4 amici, ma qualche amica che ci chiama non la vogliamo sentire. 0267091 32. Ora un po' di Clash. We'll be right back. Beh, sempre un piacere riascoltare i Clash. Siete su Rock FM nella 24 ore finale, in realtà ora di ore 14. Quando ne mancano 14, precisissimo. Sempre Giulio in onda, Maurizio Faulisi, Giulio Caperdoni, Edo Rossi, e abbiamo anche una telefonata. Pronto? Pronti? Ecco. Ah, finalmente una voce femminile. vi amo tutti, io vi amo tutti. Grande, grande. Ma tu sei un familiare, vero? Io sono un familiarissimo. E vorrei salutare tutti quei disgraziati che sono lì sotto e che ci saranno domani. Sì. Molti di più. Molti di più. Sì. Io non ci sono potuto essere per problemi personali. Vabbè, certo. Col cuore. Bertotto saluta tutti quelli che sono lì sotto, tutti quelli che ci saranno domani, e tra l'altro vi vuole un sacco di bene, Bertotto. Grazie Bertotto. Io parlo in terza persona come Bango Selma. Bertotto è il tuo nickname su rockfamily.it, ricordiamolo. Ovviamente, cioè, sarei disgraziato se mi amassi Bertotto veramente di nome. Senti Bertotto, ci hai sentito da quando abbiamo iniziato questa sera? Io da stamattina alle 8:30 e vi ho fissi praticamente. Ho capito. Oggi è tutta una striscia continua. Ho capito. Senza doppi sensi. Ok, va bene, perfetto. D'accordo, quanti anni hai, Bertotto? 31, ahimè. Beh, 31 va bene, sei in target allora. Ci hanno vinto? Niente, hai vinto che puoi ascoltare Rock FM essendo in target. Beh, qui è arrivata adesso una bottiglia di rosso e una fetta di formaggio. È una fetta di grana. Arrivo. 3 ore, sono a Firenze, 3 ore di autostrada e arrivo. Benissimo, ok, ti aspettiamo. Lasciatemi qua, la allora. Fetta. Va bene. No, ragazzi, a parte le battute, io voglio bene a tutti quanti voi, mi avete fatto compagnia per tantissimo tempo, mi ricordo le session di Ariele al Transilvania di Firenze, quindi sono passati anni. Certo. E col cuore in gola vi auguro tutta la fortuna del mondo. Grazie. Veramente. Grazie. Ci si sente, ci si sente. No, ci si vede. Certo, assolutamente. Ci si vede domenica sera. Bene. Ci saremo tutti. Ma hai preso la nazione oggi? Credo l'abbiano presi i miei. Io da stamani che non sono a casa. Ho capito. No, perché mi hanno detto che c'era un articolo su di noi con una foto mia, quindi. Wow. Il solito ego. Esatto. Va bene. Grande ego Rossi. Hai un ego leggermente inferiore al mio. Ah, però, meno male, dai. Ovviamente. Grazie Ego Bertotto allora. Ci vediamo l'uno. Ci vediamo l'uno, grazie. Ci vediamo il primo, vi voglio bene. Anche un abbraccio. Ciao. Qui consigliano un gavettone alla Claudia che se n'è andata di là a dormire. No, non si dicono queste cose perché voi non avete idea di che faccia avesse Claudia quando è venuta qui, ha infilato il testone dentro lo studio e ha detto io vado a riposare un pochino. E noi gliel'abbiamo concesso. C'è un sms che consiglia il gavettone alla Claudia. Infatti le ha detto vado a dormire fra un paio d'ore. Da Livorno. E fra un paio d'ore lei si becca il gavettone. Acqua. Infatti. Acqua. Che c'è anche della vodka. Tra l'altro pregiatissima, quindi mamma mia. Poi vedo che dicono notizia che a noi risulta ignota comunque. Sì. Potrebbe essere smentita, potrebbe essere confermata, la moglie dell'editore in vetrina ad Amsterdam. C'è scritto in un sms che è arrivato. Una notizia ansia? È una ansia, sì. Sì, manca il tiraboccioni. Ok, va bene. Qua la pribottiglia, sì. Okay. Abbiamo tutto. Siamo pronti per far partire il prossimo pezzo. Abbiamo il grana, abbiamo il vino, abbiamo i bicchieri, abbiamo la pribottiglia. Esatto. Cosa fai partire? Ci sentiamo una canzone, guarda, avevo qua in programmazione una ballata degli Slaughter, quindi ce l'andiamo a sentire al volo. Intanto banchettiamo un attimo. Of you all distinct on my mind. Have the smile, the good light at one. Now it rains, it seems the sun never shines. Yeah. Crescono i capelli quando sentiamo gli Slaughter. Magari. Ci vengono tutti cotonati, ma dentro. Insomma. Perché sto zitto in questo momento? Allora, dunque, abbiamo un altro ascoltatore al telefono. Ma perdonatemi, ragazzi, noi stiamo passando delle telefonate molto volentieri in diretta. È preoccupante, però. Però ancora non abbiamo ringraziato una persona che sta lavorando per noi di là al centralino. Certo. Che è la nostra amica Luciana, che si è prestata. Una stand innovation, una ola per Luciana. Si è prestata a questo lungo e faticoso lavoro che in questo momento ci sta supportando. Chi c'è con noi al telefono? Pronto? Ciao, ragazzi, sono Filippo. Sono di nuovo qua. Grande Filippo. A casa un quarto d'ora fa non resistevo più, dovevo sentirvi di nuovo. Hai fatto bene. Volevo fare anche un encomio solenne a Luciana anch'io, ma Max mi ha anticipato di pochissimo. Comunque brava Luciana, complimenti. Grazie Luciana, è vero. E poi c'è un'altra donna da ringraziare in questa serata, la mamma di Max, che è stata di una simpatia incredibile. Spettacolare. Allora, ha fatto una foto con Shandy e un'altra ragazza lì sotto, era meravigliosa. Sì, però questa cosa che non è stata coinvolta nello staff della radio in tutti questi anni, Max, è grave. Devi andare Maurizio, via con un senso di colpa spettacolare. La mamma di Max, vero? Maurizio, lo dicono tutti. Tu sei una delle poche persone che sa che mia madre non vive qui a Milano, fortunatamente per lei, anzi tu hai avuto il piacere di vedere anche... Io sono stato a casa sua e assaggiare quei salamini. Le mitiche specialità. Scusate un attimo, è tornato il DJ Ariele. No, meno male. Ci mancava. Mancava lui. Comunque posso dire una cosa? Dilla. Devi. Chi ha ancora un dubbio se venire su domani a Milano o no, che venga immediatamente, che parta subito anche all'alba, ma venga quanta, su. Quanta strada hai da fare tu? Io sono in via Washington a Milano, non ci metto molto. Dico, chi fosse in ascolto, chi ancora dice vengo o non vengo, che venga di sicuro. No, dobbiamo precisare, Filippo, tu sei testimone, non ti abbiamo offerto nessun tipo di compenso economico cosa. Zero. Arriva direttamente dal cuore, ovviamente. Sempre. Okay. Sono stato a cena prima rock and roll con i ragazzi, mi sono divertito tantissimo. E quindi Caschetti, angolo di Azzoretti, sempre lì. Sera buona, facciamo un po' di pubblicità occulta. No, ma ci mancherebbe, io. Tra l'altro non indosso neanche una maglia di quel prestigioso locale, ci mancherebbe. Ma no, viola. Non mi permettere poi, mai, infatti. Richiamava i capelli. Grazie ancora, veramente. Grazie. Come se grazie. Piovesse, quindi seratona, fantastica. Ah, ecco, questo potrebbe essere un altro buon motivo per venire a trovarci domani qua sotto. Quello. Tornerete a casa con le tasche piene. Abbiamo davvero una grandinata di Ziguli da regalarvi. Scusate un attimo. Ora per le magliette non chiediamo neanche più per non rompere le scatole, ma va bene le Ziguli. Scusa un attimo, ora faccio quello che ha detto Max prima. Non telefonate al numero SMS, grazie! Sì, inchioda, grazie! Ok, vai tranquillo Edo, per favore. Bene. Grazie. Dai, no, ragazzi, vi saluto. Buonanotte, ci vediamo più tardi. A presto, ciao. Grazie. Allora 0266709132, chiamate magari al termine della canzone, ecco, che il nostro buon Fauli ci sta preparando. Sì, un bel Rocky Burnett di quelli lì serviti caldi. Posso dedicarla agli amici che sono ancora sotto alla pioggia e agli amici writer che stanno lavorando sotto la pioggia. Perdonami, ma writer suona un po' come Aigwe Tuel. Ricorda un po' come Rainbow. Sì. Esatto. O come il Gary Cooper. Come i System of the Down. Hip shaking baby. Oh, yeah. Fino alla fine. Rock and roll. Yeah. Rock and roll. Rock and roll. Knock down the door. Tear down the light. Come on in and we'll rock all night. Come on in and make yourself at home. The band's really rocking and we're ready to home. I got a little girl, quiet as a mouse. The place starts a rockin', she'll tear up a house. The long black hair, baby blue eyes, sweet as a sugar from a honey bee hive. Well, she's my hip shaking baby. She's my hip shaking baby. She's gonna squeeze and tease me, do all she can. Tonight I'm gonna be a mighty, mighty man. Rocky Burnett, giusto? Oh yeah. Yeah, proprio lui, proprio adesso, lui. Adesso fate i bravi, Fate i bravi. C'è una donna! Eva! Yeah. Non ci possiamo credere. Ma ciao. Come va? Ma salve. Da dove chiami? Ma benvenuta. Chiamo da Genova. Bellin, grande. Bellin, porca puttana. Dillo forte. Non era il tuo nome e cognome, vero? Come? Non era il tuo nome, vero? Ma forse anche, chissà. Da quale zona della Liguria? Genova. Scusa, sta arrivando a chiederti l'indirizzo. Volevo dire, da quale zona? La prende larga, ma... Volevo dire da quale zona di Genova, voglio dire. Genova San Fruttuoso. Ok, fermiamoci qua. Basta, okay. Questa così, esatto. Beh, dai, il nome glielo chiediamo, però. Cecilia. L'ho già detto, Cecilia. Anzi, ragazzi, vi presento la mia amica, si chiama Cecilia. Ciao Cecilia, benvenuta all'ultima notte di Rock FM. Esatto, Cecilia, ti presento. Porca miseria, dopo 14 anni per me. Mamma, ascolti da 14 anni? 14 anni che mi sveglio tutte le mattine con voi, porca miseria. Fino a che hai deciso come proseguire a svegliarti o... Non mi sveglierò non ti più. Non svegli più. Non mi sveglio più, non vado più in ufficio, va. Comoda così, eh. Vero? Tipo il turno di notte, pensate. È una cosa del genere? Dimmi. Il turno di notte è pensabile per te? Si può anche fare, guarda. Una buona soluzione allora. Infatti. Senti, appunto. Cecilia, ma tu di solito abitualmente quando ascolti la radio? La mattina quando ti svegli poi? La mattina quando mi sveglio, quando sono a casa che cucino, sì. Mentre faccio da mangiare. Sì. E poi la sera, insomma, varie cose. La sera esattamente più o meno circa. Voleva sapere se era dalle 17 alle 19, era quello che gli interessava. Diciamo, dai. Anche, tanto il DJ credo di averlo incontrato, ma no, sono certa, alla stazione di Chiavari. Ma va. Allora io ci tengo a precisare che se avete limonato questa telefonata non vale. Guarda, no, perché no, non me lo ricordo, quindi sarebbe spiacevole per il DJ. Ehi, ti ricordo che ho un ego molto sensibile, quindi. Infatti appunto lo sappiamo. No, no, raccontami sta roba, mai visto la stazione di Chiavari? Sì, sì, allora io sono andata a fare lezione perché andavo a fare lezione lì a Chiavari ed ero sul binario. E c'era questo tizio vicino a me che aveva una rivista tipo. L'hai riconosciuto per le cuffie? Era panna, no, perché comunque aveva la rivista e stava leggendo qualcosa, aveva una rivista metal in mano. E aveva un'aria conosciuta. E volevo chiedergli qualcosa, però poi non ho avuto tanto coraggio di dire ma scusa, ma tu chi sei? E poi ero un po' stanchina, eccetera. E poi però, tipo un mese dopo, avete fatto una serata a Genova. Era proprio e c'eri anche tu e ti ho visto e ho detto cazzo, quanta miseria, era veramente miseria. E stavo leggendo una rivista metal alla stazione di Chiavari? Sì, seduta sulla panchina, me lo ricordo benissimo. Mamma mia, non mi ricordo. Era un mercoledì, perché io andavo a fare lezione il mercoledì. Mamma mia, yeah. Non dire altro perché non me ne ricordo, non vorrei aver combinato una cazzata quel giorno.